per Venezia, grazie anche al lavoro dei parlamentari veneziani, per la quale si stabilisce un massimo di 120 giorni entro i quali poter affittare proprio immobile su piattaforma digitale. Superati questi 120 giorni, l'immobile non si capisce bene tramite quale procedura, però dovrà attraversare un cambio di destinazione d'uso e essere di fatto ricettivo, come lo potrebbe essere un albergo. È una misura sicuramente interessante, nel senso che tante città italiane, europee hanno già sperimentato questa opzione. Sappiamo per certo che non basta, però, perché appunto senza strumenti per poter garantire che questo avvenga rischia di essere inefficace. Voi ormai 3 anni fa, nel 2019, avevate promosso un'istruttoria pubblica proprio su questi temi, e che cosa è successo da allora? Sono successe tante cose, nel senso che dopo appunto l'approvazione dell'ordine del giorno legato all'istruttoria pubblica arriva di fatto la pandemia. Succede che la pressione turistica scende di molto su Bologna, gli annunci su Airbnb scendono, ma in realtà non troppo, secondo alcuni dati, secondo la piattaforma AirDNA, di poco sotto i 3.000, dai 4.500 di picco che c'erano stati appunto a fine 2019. Succede adesso che Bologna, come era prevedibile, è la città in Italia con il tasso di crescita più alto degli annunci appunto su piattaforma. Siamo oggi sui circa 3.500 annunci, è cambiato molto poco, sono cambiati magari i nominativi dei grandi host, ma il concetto è lo stesso, perché se prima c'era insomma la signora Bettina, che sappiamo non essere una signora, avere 65 appartamenti, oggi ci sono Rino, Andrea, Luca, che ne hanno 20, 40, insomma capiamo bene appunto che non si tratta di normali cittadini o cittadine. Il 75% degli, diciamo, degli immobili messi in lista sono case intere, quindi ancora vediamo che a discapito del concetto di condivisione c'è un concetto di pura imprenditorialità. E diciamo, dato che l'ordine del giorno di istruttoria stabiliva la creazione di un tavolo pubblico, trasparente, partecipato da più realtà sociali con idee anche diverse, noi crediamo sia arrivato il momento, insomma, di avviare questo tavolo, di fare in modo che sulla stretta, insomma, si possa decidere assieme. Quali potrebbero essere delle regole che facciano sì che le locazioni turistiche non poi droghino, non alterino il mercato delle locazioni? Il criterio a cui come comitato ci siamo sempre rifatti, che abbiamo tenuto un po' come stella polare, è quello utilizzato anche in alcune esperienze europee, che è il one home, one host, una casa, una persona che ospita, mettiamola così, e quindi legare il concetto di affitto su piattaforma al concetto di residenzialità nell'immobile. In quel caso sì, si tratterebbe di condivisione e non di attività imprenditoriale. Ci sono vari modi in realtà per raggiungere un obiettivo di questo tipo, e penso anche che si possa differenziare in base al territorio in cui ci si trova. Venne sperimentato il codice unico identificativo in alcune regioni, ma senza una legge nazionale si è rivelato poi comunque non del tutto efficace. Ma come dicevo prima, appunto, per qualsiasi misura che si vuol pensare, i comuni devono essere messi in condizione di appunto di fare controlli, di studiare anche il fenomeno. Sappiamo che Airbnb non rilascia dati certi su quella che è la sua attività, e quindi penso che Bologna debba poter essere, così un po' sul modello di Barcellona, che appunto ha questo ufficio comunale con tantissimi dipendenti che si occupano di questioni differenti, Bologna che sia la prima città ad avviare l'osservatorio sulle locazioni turistiche interamente pubblico, per fare analisi e anche con l'agenzia delle entrate fare dei controlli molto forti. Queste due cose secondo me sono le prime due a cui tendere all'interno di questo dibattito. La pandemia ha, come dire, ovviamente azzerato un po' il problema, almeno nelle fasi di lockdown. C'è il rischio che con le aperture di quest'anno si ripresenti il problema generato dalle locazioni turistiche? Assolutamente sì, pensiamo che la drammaticità della pandemia ci debba insegnare qualcosa, e secondo me ci deve insegnare che non possiamo fare in modo che interi settori di mercato non vengano regolati e appunto possano proliferare senza guardare in faccia poi quelle che sono le esigenze di chi un territorio lo vive davvero. Così questa cosa, secondo me vale non solo per Airbnb, anche per altre piattaforme come Booking, ma ne nascono anche di nuove, specialmente negli ultimi anni. Bisogna mettere un freno per tanti motivi diversi, per la sostenibilità ambientale e sociale del territorio, va fatto anche per una questione di distribuzione. Non dimentichiamoci che Airbnb ha sede nel Delaware, appunto, che notoriamente ha, diciamo, tassi fiscali molto, molto convenienti. La sede europea è in Irlanda, dove c'è una tassa sugli utili che è veramente bassissima, quindi significa che tanta ricchezza viene estrapolata dai contesti, diciamo, del nostro territorio e va a finire in paradisi fiscali. Secondo me c'è un tema che è appunto di giustizia sociale, per il quale bisogna agire il prima possibile, prima che si ripresenti in maniera esagerata il fenomeno.